picchi di frequenza. Storie, viaggi, recensioni. Il settimanale di montagna di Radio Onda d'Urto. Bentornato a tutte e tutti su Picchi di Frequenza. In questa puntata andremo a incontrare Gaia, la rifugista del Guglielmo Gervis. Faremo poi la conoscenza con Luca Mocarelli nella prima parte di un'intensa chiacchierata col docente di storia economica e animatore della rivista di storia delle Alpi, ma prima le notizie della settimana. La nostra incursione nelle notizie della settimana comincia su planetmountain.com. Crolla un'intera falesia sul Selvaggio Blu in Sardegna, sostanzialmente un tratto della falesia nei pressi di Punta Plumare è crollato per effetto di una frana che è ancora in via di assestamento. Al momento sono stati fatti alcuni sopralluoghi che hanno rilevato come la zona sia ancora altamente instabile e in fase di assestamento. È dunque vivamente sconsigliato avventurarsi in questo tratto del trekking. L'articolo prosegue, a firma Maurizio Viglia: già la splendida spiaggia di Cala Golorize fu infatti originata da una frana, stando ai racconti dei pastori. Ci spostiamo immediatamente invece dalle nostre parti, perché Montagna.tv pubblica un articolo dal titolo eloquente: 5 ferrate sconsigliate in Lombardia. Rilievi effettuati dalle guide alpine lombarde, cofinanziati da Regione Lombardia. Le ferrate sotto osservazione sono quella delle Marmere al Monte Spino, la ferrata Madonnina del Coren, il sentiero attrezzato della Scarettone, il sentiero attrezzato dei Mughi alla Cima Caldoline e la ferrata al Pizzo Badile Camuno. Anche l'attrezzatura della via ferrata al Sentiero dei Fiori nel gruppo dell'Adamello è in cattive condizioni e quindi richiede semplicemente qualche capacità di tipo alpinistico. Le informazioni continuano con lo smantellamento di altri sentieri attrezzati e con insomma segnalazioni di sicura utilità per chi volesse affrontare in sicurezza la montagna, quindi tutti quanti. La terza ed ultima notizia di questa settimana, che poi è una segnalazione: dal 28 al 31 ottobre al Cineteatro Arca va in scena il Milano Mountain Film Festival, con un'anteprima il 24, fitto programma di mediometraggi, ingresso a pagamento ma sostenibile. Purtroppo ci sono una serie di patrocini improbabili, ma ci sembra il programma di assoluto interesse. 5 serate di grande cinema, evento teatrale finale, 12 film selezionati su oltre 100 pervenuti. Allora, mi chiamo Gaia e rifugio Guglielmo Gervis lo gestisco da un anno, è il primo anno. Siamo in tre, siamo io, Bruno e Luca, e siamo tre amici di Milano che insomma per questa passione per i rifugi ci siamo messi insieme per gestire questo rifugio. Questo perché è un rifugio aperto solo d'estate, quindi non è un vero lavoro, lo facciamo tutti come hobby, tutti e tre abbiamo degli altri lavori poi durante l'inverno. E abbiamo gestito altri rifugi in precedenza, però questo è un rifugio che ci piace particolarmente perché è molto in alto, abbastanza, a 2200 metri, ed è in un posto bellissimo perché c'è un grosso pianoro che si chiama Pian del Nel, con un fiume, e con tutto un pascolo ci sono le mucche, ci sono gli asini d'estate, e poi è proprio ai piedi delle Vanne, che sono dei massicci che arrivano fino a 3600 metri, per cui da rifugio uno ha prima tutto questo pianoro e poi vede queste vette drittissime che sono veramente molto belle, e il tutto è nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, per cui si vedono un sacco di animali, camosci, si vedono stambecchi pochi perché quelli sono più in alto, però camosci tantissimi, si vedono, si vede l'ermellino, si vedono le volpi, un sacco di marmotte chiaramente, e addirittura abbiamo visto anche il lupo quest'anno, che era proprio lì nella zona, però ci hanno detto che non è pericoloso, quindi siamo tranquilli. Senti, un pizzico di storia. Qual è la storia del rifugio e come ci siete arrivati? Perché proprio al Guglielmo Gervis? Allora, la storia del rifugio era una casermetta militare che poi è stata data negli anni, alla fine degli anni 40, è stata affidata al CAI. Ci siamo arrivati tramite bando, banalmente. Stavamo cercando un rifugio, abbiamo visto vari bandi e il rifugio Guglielmo Gervis era quello che ci è piaciuto subito di più. È intitolato a Guglielmo Gervis, appunto, che insomma è stato un partigiano che era della zona e che poi è stato fucilato nelle valli valdesi. Infatti in Val Pellice c'è un altro rifugio intitolato sempre a Guglielmo Gervis. Noi siamo il rifugio Guglielmo Gervis, loro sono il rifugio Willy Gervis, ma Willy e Guglielmo sono sempre la stessa persona, per cui li hanno intitolato ben due rifugi. La storia di Gervis è una storia molto interessante. Lui era un alpinista, nonché un ingegnere della Olivetti, però a un certo punto si è messo a servire insomma la causa della resistenza e poi è stato fucilato. Allora, a proposito invece delle attività che si possono fare a partire o facendo tappa proprio al rifugio, è un'area per escursionisti, per trekking, per arrampicata, che cosa ci puoi dire? Allora, si può fare un po' di tutto nella zona del rifugio. L'arrampicata vera e propria è più giù, nella Valle dell'Orco, è una valle famosissima per gli arrampicatori, la conoscono tutti. Vicino al rifugio non si può più perché da quando il ghiacciaio si sta ritirando la roccia è fragile, per cui è abbastanza sconsigliato arrampicare. Invece a livello di trekking e di escursioni ce n'è un po' di tutti i tipi. Ci sono dei sentieri dal più facile di un'ora e mezza per salire al rifugio da Chiappi di sotto a 4 ore se si sale da Ceresole facendo il giro dal lago del Dres e dal colle del Nel. Si può anche fare una traversata molto bella che porta nelle valli di Lanzo al rifugio d'Aviso. C'è una traversata che dura una giornata intera e si può fare tappa nei due rifugi. È la Valle dell'Orco, piena di sentieri, per cui tanta gente passa al rifugio, poi va dall'altra parte della valle dove ci sono dei bivacchi anche a 3.000 metri, poi va verso la fine della Valle dell'Orco, al Colle di Nivole, da cui poi si può andare verso la Valle d'Aosta. Insomma, non c'è un vero sentiero come potrebbe essere la Via delle Alpi che passa lì vicino, però dal rifugio è possibile agganciarsi facilmente a tanti altri sentieri, ecco. Quanti riferimenti? Ho visto che avete un sito internet, rifugiogervis.com. Ti chiederei l'unica cosa, diciamo che partiamo da Torino, quanto tempo ci vuole ad arrivare al rifugio? Allora, da Torino più o meno un'ora e mezza, un paio d'ore andando piano, perché non sono tanti chilometri, mi sembra che siano 90, però è tanta statale. La Valle dell'Orco è molto lunga e si impiega circa un'oretta a farla piano, meno di un'ora se la si fa veloce. E da Milano invece, ma da Milano in realtà anche un paio d'ore perché si fa un'ora di autostrada e poi un'ora di statale. Ok, aperto da giugno e settembre, tutti i weekend. Quanti sono i posti letto invece? Tutti i weekend, luglio e agosto, è aperto tutti i giorni. I posti letto sono 23. Ci sono sia lo stanzone, c'è anche una stanzina per chi vuole la sua privacy. Thank you. docente di storia economica presso l'Università Bicocca di Milano, ma in questa sede studioso di Alpi e di montagna, nonché direttore della rivista di storia delle Alpi. Partiamo però con lui da una domanda relativa ad un progetto diverso, e cioè un progetto che vi è stato affidato da Wikimedia Suisse, se non vado errato, che vi ha chiesto di compilare, migliorare e completare la pagina di Wikipedia relativa alle Alpi, è corretto? È corretto, la cosa è iniziata in realtà perché prima che Wikimedia Suisse ci contattasse, io e Matteo, che allora era il presidente dell'Associazione Internazionale di Storia delle Alpi, abbiamo fatto una voce di Storia delle Alpi da mettere su Wikipedia, ed era una voce che noi abbiamo fatto sintetica in tutte le più importanti lingue alpine, per cui c'era la versione italiana, c'era la versione francese, quella tedesca, quella slovena, quella romancia, quindi c'erano tutte le versioni, era fatta con una parte generale che era comune e con una parte invece poi di approfondimento relativa ai singoli contesti nazionali. Siccome questa cosa è piaciuta molto, siamo stati contattati per creare e costruire appunto un portale sulla storia delle Alpi, e a loro interessava molto nella loro strategia di sviluppo che stavano portando avanti. Iniziamo a spostarci un po' dal tema di Wikipedia verso il tema della rivista. È una domanda che può sembrare un po' retorica, ma fatta ad un addetto ai lavori come te ci sembra corretta. Che senso ha oggi studiare la storia delle Alpi, e quali sono i temi principali di approfondimento e le contraddizioni, i conflitti, i dibattiti che ci sono sul tema? Studiare la storia delle Alpi ha sicuramente un senso. In realtà la rivista Histoire des Alpes, che adesso compie 20 anni, il numero del 2015 è il 20° numero, è una rivista annuale che è nata quando nel 1995 a Lucerna è stata fondata l'Associazione Internazionale di Storia delle Alpi, e l'obiettivo era esattamente quello di gettare uno sguardo nuovo sulle Alpi da tutti i punti di vista, perché per un sacco di tempo le Alpi sono state spesso, soprattutto al mio settore, alla storia economica, sono state sostanzialmente poco considerate dalla storia economica, perché c'era questa idea che fosse un'area marginale, arretrata e così via. Invece, a partire dagli anni 90 c'è stata una ripresa di interesse da tutta una serie di punti di vista, e sono emersi diversi lavori innovativi relativi alla storia delle Alpi. Tra l'altro alcuni temi hanno una grandissima continuità dal punto di vista storico, nonostante siano di grandissima attualità. Penso per esempio a un discorso che è stato approfondito nel penultimo numero di Storia delle Alpi, era quello sulle risorse naturali delle Alpi, e quindi come sono state sfruttate, valorizzate, gestite le più importanti risorse naturali nelle Alpi, quindi l'acqua, i minerali, il bosco, i pascoli. Questa cosa è fondamentale oggi per quanto riguarda un tema che è cruciale nello sviluppo o non sviluppo delle aree montane e nel tipo di sviluppo delle aree montane, che è quello della regolazione territoriale, come viene gestito e sfruttato il territorio in montagna, che è un tema rilevantissimo che si incontra con un altro tema di cui si parla tantissimo, non solo gli storici ma anche gli scienziati sociali, che è il tema dei beni comuni e delle proprietà collettive, perché ancora oggi in realtà nell'area alpina in Italia una parte rilevantissima dei terreni che ci sono ancora di fatto terreni collettivi, sfruttati collettivamente, non sono terreni di proprietà privata, e quindi emergono tutta una serie di temi molto interessanti dal mio punto di vista. Per esempio un tema è che modello di regolazione territoriale, quindi che modello di sviluppo si sceglie, dove per semplificare e spiegare c'è un modello che è quello delle seconde case, che vuol dire consumo del territorio, un impatto ambientale molto forte, che è quello della Valle d'Aosta per esempio, dove ci sono 120.000 abitazioni e 55.000 sono seconde case non abitate da valdostani, quindi quasi la metà delle case. governo, e invece un modello che è di fatto bloccato la procedura delle seconde case, che è quello della provincia di Bolzano, dell'Alto Adige, che ha avuto uno sviluppo turistico incredibile e che ha valorizzato invece le eccellenze locali, quindi la ristorazione, le strutture ricettive, gli agriturismi. Solo per fare un esempio, in Val d'Aosta ci sono 50 agriturismi, in provincia di Bolzano ce n'è 2100. Certo. È proprio un altro modello, un'altra idea, che però nel medio e lungo periodo è stata vincente rispetto a fare costruire case ovunque, che poi non sono di fatto utilizzate, sono utilizzate pochissimo. Ma mi vengono in mente anche, per esempio, i progetti, i finanziamenti per ristrutturare i vecchi masi della Val Venosta, per esempio, comunque della provincia di Bolzano, che stavano essendo abbandonati perché, come dire, l'economia montana era in crisi, e che invece adesso sono ripopolati e sono diventati o agriturismi o magari sono tornati a fare vita dal peggio e economia dal peggio. No, è stata una scelta precisa, perché in Alto Adige, comunque, alla base c'è, cioè, giustamente, come dici tu, il primo problema che loro avevano, ma che è interessato tutta l'Italia quando c'è stato il miracolo economico degli anni 50-60, è stato quello dello spopolamento montano, della gente che se ne andava, e quindi hanno fatto tutta una serie di politiche anche per riportare le persone in montagna, o di creare tutta una serie di agevolazioni, di strumenti, di incentivi perché le persone che ancora c'erano in montagna non se ne andassero e quindi restassero lì. Però poi l'altra cosa che è stata fondamentale per il loro successo turistico è stato che hanno, bloccando di fatto la costruzione delle seconde case in provincia di Bolzano, le seconde case sono il 9% delle case che ci sono contro il 50% della Val d'Aosta e il 60% della provincia di Sondo, quindi sono altri numeri, e facendo così ovviamente hanno anche preservato molto di più il territorio, e quindi questo dal punto di vista turistico si è rivelata poi una strategia assolutamente vincente nel lungo periodo. Una cosa che non sa praticamente nessuno quando si pensa al turismo è che è la provincia italiana che ha più presenze turistiche, Venezia, per ovvi motivi, ma la seconda provincia italiana con le presenze turistiche, che ha più di 30 milioni di presenze all'anno, è Bolzano, non è né Roma né Firenze, è Bolzano, e quindi questo dimostra la bontà delle scelte che sono state fatte, mi sembra abbastanza indiscutibile. Ultima domanda, più forse una curiosità, una cosa molto interessante della rivista è che raccoglie studiosi di lingue diverse e di paesi diversi, Germania, Austria, tutti i paesi insomma che ruotano intorno all'arco alpino, Svizzera, Francia, Italia. Si riesce a fare sinergia o ci sono ambiti di interesse di studio diversi? No, l'idea è, in realtà la rivista, ma anche l'associazione, nasce esattamente con quell'obiettivo lì, cioè di mettere insieme, siccome lo spazio alpino è uno spazio tipicamente transnazionale, di mettere insieme gli studiosi dei paesi attraversati dall'arco alpino, e devo dire che da questo punto di vista ha funzionato molto bene, perché si sono create anche collaborazioni, ricerche insieme, molti temi ovviamente da approfondimento sono trasversali, riguardano tutto l'arco alpino. E poi quello che ha fatto la rivista, devo dire, in questi tempi di inglese dominante da tutte le parti, ha fatto una scelta linguistica assolutamente controcorrente, che è stata quella di pubblicare articoli nelle tre più importanti lingue alpine, cioè il Tour des Alpes, che tra l'altro adesso ha avuto l'ok per essere indicizzato in Scopus, quindi verrà anche indicizzato in quella delle banche dati per la valutazione e per la ricerca più importanti. È una rivista trilingue, ma per una scelta precisa presa all'inizio. sera vi parliamo di un romanzo che in qualche modo ci racconta una montagna, in particolare la Yosemite Valley, negli anni d'oro, se vogliamo, della valle, dell'epoca delle grandi vie sul Capitan, sul Nose, quindi siamo tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80. Il libro Angeli di Luce, l'autore Jeff Long, un climber del Colorado, quindi conoscitore di quell'ambiente e conoscitore di quei luoghi. Il romanzo, di cui chiaramente non vi entriamo troppo nel dettaglio per non rovinare la sorpresa ai lettori, è la storia di una comunità, delle sue virtù arrampicatorie, delle sue debolezze, delle relazioni, degli scazzi, delle, se vogliamo, anche delle tante storie personali che la Yosemite Valley e soprattutto il pensiero dell'arrampicata libera californiana di quegli anni si portava dietro. Nel romanzo, che come dire si dipana come una thriller story, complice un aereo che precipita, un carico di coca e tutto quello che ne consegue nel mondo della valle, è semmai uno spaccato che ci fa vedere anche, se vogliamo, le rivalità, le miserie, e forse possiamo leggere nell'evolversi della vicenda anche una sorta di metafora di quello che è stata poi negli anni l'evoluzione di quel mondo arrampicatorio, la sua, se vogliamo, mercificazione, la sua disciplinamento sotto canoni più consoni al mainstream dell'alpinismo, e quindi snaturandone quello che era stato l'iniziale anche afflatto di carattere filosofico, sociale e anche, se vogliamo, culturale e politico. È un libro che si legge volentieri, è un libro che, per quanto datato, consigliamo a tutti coloro che vogliono rivivere anche solo attraverso una narrativa quello che era appunto la Yosemite Valley del nuovo pensiero arrampicatorio californiano. L'editore Vivalda, l'autore Jeff Long, il titolo Angeli di Luce. Buona lettura. Anche questa settimana la mezz'oretta a nostra disposizione termina qui. Prima di lasciarvi i consueti contatti per idee, segnalazioni, proposte e suggerimenti, anzitutto all'indirizzo mail abo@inventati.org, sul social network azzurro all'account @abuzzo3, su quello blu alla pagina Picchi di Frequenza, oppure sul sito web amonte.info. Io vi saluto, vi ringrazio, spero vi sia piaciuta. Ci sentiamo venerdì prossimo alle ore 20 dalle libere frequenze di Radio Onda d'Urto.